quelle specie di taloni grandi. Sì, cazzo, guarda, uno spettacolo era, Marco. Guarda, un giorno porto io gli ingredienti, li compro io, mi dici cosa devo comprare e tu me la prepari. Sì. Ci vuole il guanciale, un bel pezzo di guanciale, e dopo te lo faccio vedere io, la carbonara. Oh, Natalia, se tu vedi in quei video su YouTube, no? Tipo come fanno la carbonara negli Stati Uniti, poi Stati Uniti è riduttivo, ci sono tanti stati, tante città, ma hanno visto delle schifezze. Per carità, ma persino McDonald's in confronto è buono, perché fare una carbonara in quelle condizioni, con ingredienti equivalenti secondo loro, una porcheria. È una porcheria, sì. La carbonara è buona come quella che fanno a Roma. E buh, anche la carbonara è ghissa. Ehi, ehi, poi scelti con l'uovo l'essere... non deve essere, cioè, vabbè, parametri io non li conosco bene, non l'ho mai fatto. Deve essere bella cremosa, ui, bisogna saperla lavare, non è così. A questo proposito della cremosità, a me piace posto, ma molto la pasta risottata. Quando c'è proprio quel condimento, non necessariamente sugo, altri condimenti, però bella proprio cremosetta. Quello è il massimo per me, per la pasta. Poi se tu mandi la carbonara che faccio io, te ne ricchi i baffi, Marco. Mi chiedilo Adriano, qualche giorno per qua, chiediglielo a vedere com'è la carbonara. Oppure quel sugo che faccio io con i pomodori freschi. Uno spettacolo. Quindi adesso mi sta venendo fame, però è troppo presto per la cena. Mi mangerò una cosetta così, tanto, un assaggino. E io ho già mangiato, perché sennò è un macello. Sì. Poi l'altro giorno stavo cercando di fare roba al computer, non ho capito niente. Cioè mi sono azzuffato per ore e non... sto perdendo lo smalto, Natalia, non è più come una volta. Io mi si è scazzato il computer, mamma mia. Ah, la torre? Sì. Però vedi, il bello che quello, essendo tutto modulare, cioè una volta identificato il componente che non va, lo togli con i perapetti, lo rimetti. Invece sai che schifezze fanno nei computer portatili di oggi? Certi hanno addirittura la memoria RAM non con l'annessa pettine, ma è saldata sulla scheda madre. Cioè, se la vuoi cambiare ti devi pensare di saldarla pure. E poi sono di cartone, cioè se li vedi sono scandalosi, sono proprio a risparmio, infatti per rompersi. E allora, quelli lì non servono a niente proprio. Il mio è velocissimo, perché gli avevo messo uno di quelli allo stato solido di dischi, ed è velocissimo, anche se ha 12 anni. Infatti Windows 11 non lo posso mettere, perché se ne accorge e mi dice che è obsoleto il computer, capito? Però sta sempre andando, per il momento. Ma lo puoi bypassare? Se veramente fossi interessato, è che è troppo nuovo. Già noi, allora, già io ho bestemmiato con questi cavetti USB dei Baobao, i driver non vanno bene, oppure il cavetto non è riconosciuto dal sistema operativo. Troppe rogne, hai capito? E soprattutto driver, inerente ai driver mancanti. O che i produttori di hardware non hanno proprio fatto i driver per le versioni di Windows 10, capì? Per l'11 non ne parliamo, 12 poi, vabbè, un miraggio. Sì, non ti fai parlare nulla, già lo so. Anche il vicino che ha Windows 11, ma lui lo fa per mestiere quello. Anche lui maledice, perché non gli fa piazzare i driver di programmi vecchi che a lui servono. Ci sono programmi che girano solo su Windows 7, manco su 10 girano, figurati. Adesso rilanciamo Vittorio, senza contare Natalia che è presente il software di programmazione, sì, Baobao, oppure questi CRT, no? Allora, il programma, il software di programmazione scaricato dalla Cina di alcuni era riconosciuto come contenente o malware o un Trojan. E lì non vai a rischiarti un computer, non vai a compromettere un computer nuovo per dire, per installarli, capito? Beh, lo so, ti dice che c'è il virus, già lo so. Che magari non è un vero virus, diciamo che sono delle, delle DLL che ti permettono di scavalcare qualcosa, no? Per permetterti di programmare, però non mi fido. Però poi ho trovato gli stessi programmi di... per programmare i baracchini e quella roba lì da un altro sito che non conteneva Trojan, allora vuol dire che lì c'era la malizia, capito? Ma le stanno dicendo di tutti i colori anche di questo, vabbè, TikTok e passi, questo nuovo Temu, dicono di non scaricare l'applicazione, vabbè, queste sono mosse sporche politiche, non so se crederci nemmeno, però insomma gli Huawei ti spiavano, Temu ti spia, adesso TikTok ti spia, la stanno prendendo in do contro la Cina, capito? Come detto, sono sporche mosse politiche, non è detto che sia tutto vero. Vai, Vito. Sì, no, vai, hai ragione. Io purtroppo di software non è che me ne tenda molto, so fare qualche cosa, lo uso, il computer lo uso solo per la musica, non lo uso per altro. Però sono carente per quanto riguarda quella situazione lì di software e così. Io avrei avuto bisogno di un case che si potesse, anche un XP mi potrebbe andare bene, perché lo uso soltanto per come messaggio, praticamente entra il segnale nel tutto nel mixer e dal mixer poi va nell'altro case, quello professionale che ho, per registrare tutto qua, non riesco a trovare un case capace, tutte marche. Ehi, ma aspetta, non ho capito bene, hai detto il case, hai detto c'è quello, ti riferivi a quello? Allora io ho un case, però per poter registrare, come registrazione, per fare una registrazione, ad esempio, di canto, eccetera, è necessario un altro case, che è questo. Che vuol dire? Entrare nel mixer e dal mixer poi va a registrare di là, perché tra case e case non si può registrare, in quanto non legge il messaggio dall'ingresso del microfono. È una cosa complicata, non viene bene a spiegarlo, bisogna essere lì presente. No, mi trovo un po' in difficoltà. Natalini, ma case o keys? Non seguo bene. No, cosa che mi ero spostato, Marco. No, aspetta, sta riperdendo Vittorio. Scandiscimelo. Il case, PC. Ma è qualcosa legato all'audio che non riesce a fare. Sì, è una cosa complicata. Allora, sto parlando di un case, non è un PC portatile, è un case, diciamo, unità centrale. Sì, la torre, ia. La torre che cosa serve? Serve quando tu programmi un brano, una canzone, la registri bene, tutto quanto è registrata, con il suo equalizzatore, con il suo mixer, entra in un mixer il segnale dall'uscita delle cuffie, entra e dal mixer poi mette il microfono, tutta l'attrezzatura che deve registrare e va nell'altro case. A che cosa serve questo? A registrare. Poi in quel case che registra c'è un programma di registrazione, si chiama Call Edit o Cubase, un programma che registra per poter registrare una tua canzone registrata da te. È un problema di cavi o di software, fammi capire. No, allora ti spiego. Questo case che ho io, che sto usando, non va bene, c'ha una frequenza e mi porta un disturbo nella registrazione, porta un disturbo tipo... fa un rumore, capito? Quindi non ha una sincronizzazione di viene male a spiegare, perché io purtroppo, se noi non siamo io e te davanti a questa attrezzatura a spiegarti come funziona, viene male da spiegare. Infatti, no, ma poi di queste cose audio non sono tanto pratico, mixaggio, vabbè dai, no, non pervenuta. È un po' difficilino da spiegare, tu devi essere con me insieme nel luogo o qua o dove capita per spiegarti come è la procedura. No, vabbè, infatti lo mettiamo nel discorso, da anche lì detto, sto perdendo quota lì. Prima mi veniva più automatico fare le cose, pensare, adesso quando devo fare una procedura di un qualcosa da fare non mi so organizzare tanto bene. Infatti ieri non ho concluso niente, vabbè. Sono cose difficiline, cioè io so cosa devo fare, non ho problemi. È che mi manca appunto un case che sia capace, che non abbia questi problemi di... È una questione di frequenza, lavorano con frequenze diverse, quindi bisogna trovare un case che abbia la stessa frequenza e lavorano, è come un microfono, lavora a 650, 700 ohm, se quello è a 400 o 1000 non va bene. Ah, un problema di impedenza, via. A proposito di torri, io ho due torri da buttare dell'anno 3, una del 2000 o dintorni, l'altra del 2004 può essere, che roba veramente obsoleta, però butto il resto, devo salvare l'hard disk che magari ci sono dati, password, dati sensibili. Beh, il 2004 già comincia ad essere troppo obsoleto davvero. No, ci vorrebbe uno massimo 2010, 2011, 12 massimo. Prima è proprio obsoleto. Sì, infatti, c'era il 98, poi passato XP. Mamma mia, perché con quanto tempo è passato. Poi non li ho mai voluti buttare, sembrano nuovi se li vedi, però poi in uno è partita la scheda madre, in uno la scheda video, e non vale la pena. Non vale la pena, non servono più i pezzi, capito? Sono di un'altra epoca. Sì, non sono più riparabili neanche. L'XP potrebbe andar bene se è buono, perché l'XP addirittura c'ha una scheda madre dove c'è un mixer e un equalizzatore che funziona benissimo, però se non funziona la scheda madre non funziona niente. Sì, Natalia, un'altra cosa, vabbè, io potevo anche addentrarmi e leggere questi BIOS UEFI, non ho capito cosa abbiano di diverso dagli altri, non ci sono nemmeno mai entrato nel BIOS, lo sai, meno un po' le scatole già, so solo che si è fatto un aggiornamento per conto proprio, cioè faceva i ragionamenti, mi aveva suggerito un aggiornamento al BIOS UEFI, che però non so se avevo lasciato, se li avevo lasciato fare o no, credo di sì comunque. Sono i nuovi BIOS quelli, io addirittura ho sbagliato mettendo quell'hard disk che l'ha fatto solido, no? Perché non voleva formattato normalmente, perché adesso mi riconosce solo lui, se io metto altri dischi non me li conosce, hai capito? Quelli meccanici, ne ho tre qua di dischi meccanici e non li posso usare perché sennò dovrei riformattare tutto e metterlo nella posizione, devo entrare nel BIOS e metterlo nell'ultima posizione per riconoscermi gli altri dischi, capito? Ma sai cosa volevo prendere per vedere cosa c'è rimasto su questi hard disk antichi? Come si chiama quell'adattatore? L'ho visto su Amazon, anche su AliExpress. Praticamente è una scheda grezza dove tu connetti l'hard disk. Non so se sia ATA, serial ATA il connettore, manco quello so, e poi c'è lo spinotto USB e un pacchetto, un'interfaccia per connettere il hard disk esterno alla presa USB e vedere se c'è qualcosa da salvare, qualche password, qualche foto, Avevo preso anche una disc, lo sai, roba dove salvavo foto di famiglia, cose, video, tutto. Si è guastato da un giorno all'altro, boh, ho perso tutto. Per te fino ho cominciato a fare tac tac, ho detto bah, Xiaomi, è un problema proprio hardware. Peccato. Perciò adesso faccio sempre tutto doppia copia. Anche adesso salvo su hard disk, certe volte c'ho ancora masterizzatori funzionanti, anzi nuovi sono masterizzatori, salvo su DVD le cose più importanti, capito? Sì, infatti. Io ne ho tre qua e non li posso utilizzare, perché sennò dovrei entrare nel BIOS, metterlo nella posizione che dice lui e poi reinstallare il sistema operativo, hai capito? Se no non li posso trattare. E tu stai dicendo quelli avanzatori per rendere il disco interno o esterno, là. Ho capito. Che te lo legge tipo chiavetta. Eia, però non ricordo l'attacco di quelli hard disk, perché sono del 2000, 2003, 2004, forse 2005, cioè sono dell'anno 3, pensa che uno è da 13, no, nel senso non che è da 13 che non vale niente, era proprio da 13 gigabyte, una miseria, cioè... Quello si può fare, Marco. Eia, sì, ho visto che li vendevano almeno, però l'importante è l'attacco sia quello, perché io di hardware li uso ma non traffico molto dentro. L'antalino è più manuale per quelle cose lì. Proprio la disk era 13, mi ricordo ancora, se è quello che penso io. 13 gigabyte, adesso. Sì. Guarda, nemmeno la più miserabile delle pennette USB c'ha 13 giga, sono tutte molto più potenti, più capienti, cioè. Allora, quelli hard disk che c'hai tu, che è da 13 giga, io ne ho da 80 e sono uguali, fino al 2007 gli hard disk sono tutti uguali, gli stessi attacchi, la stessa, come si chiama, il connettore è uguale, tutti uguali sono. Ok, ricordo la marca, Maxtor. Sì, ne ho due di quegli hard disk, uno da 50 e uno da 80. Sì, quindi uno da 13, l'altro non me lo ricordo, la verità. Tanto io salvavo sempre su o CD o DVD, hard disk esterni, altro vabbè, sono gli SSD che sono stratosferici anche come velocità. Tutto cambia. Mi ricordo Natalie, Vittorio non so se per lavoro magari li ha mai usati o per diletto, le famose unità Omega Zip, che erano delle specie di flopponi, non flopponi, erano, non so se definirle cartucce, ma la memorizzazione era tipo magnetico, e sembrava quasi una specie di floppy inserito in una cartuccia. E lo mettevi nel lettore proprietario, ovviamente, per leggere questi Omega Zip. Natali, te li ricordi? Servivano per il backup anche dell'azienda. Sì, sì. Una roba obsoleta che... Sì, poi aveva fallito, chiuso la ditta che li faceva o si è convertita in altre cose. Scomparsi perché poi, come sono arrivati i supporti ottici, che adesso sono obsoleti anche quelli. Adesso anche i CD sono obsoleti, tutti con dita bennetta. Ma prima mi ricordo le bestemmie quando la masterizzazione falliva. Praticamente bruciavi un CD o un DVD e non ci dovevi buttare perché andava male la masterizzazione per qualche motivo. E infatti, perché bisognava usare quelli riscrivibili. Vabbè, riscrivibili, però se la roba da stoccare era un peccato riscrivibile, perché riscrivibile lo potevi usare tante volte, poi vabbè anche io li usavo perché sembravano più affidabili, capito? Forse avevano uno strato appunto scrivibile più spesso, più versatili erano, dai. E se facevi quelli in multisessione, guai. Certe volte non ti tornavano i conti, non trovavo più i file della vecchia sessione, praticamente ti sciabidava tutto il disco. No, mai più. E già lo so che, mamma mia. Ma io questa cosa non la sapevo. Cioè, nel multisessione io volevo mettere delle cosine, un giorno, un po' l'altro, ma non è che volevo aggiornare le vecchie già memorizzate. Lì praticamente se vedeva un nuovo file, toglieva i file vecchi. Fu un pasticcio, non usciva. Per carità. Ehi, gatta, perché come tu finivi te lo chiudeva il disco, capito? No, anzi, restava aperto, però proprio perché aggiungendo sessioni andava a cercare i file della vecchia sessione, se lo ritrovava sul hard disk principale, li considerava mancanti e li toglieva anche nella nuova sessione, una cosa del genere. Infatti la cosa migliore era fare un disco da chiudere e basta, mettevi dove serviva, finché ce ne stava, chiudevi la sessione, punto. Poi senza contare che un liceo, le videocassette si cancellano, è vero, no? Le vecchie cose magnetiche, no? Ma grazie a Dio, sa quanti CD o DVD di dati ho trovato illeggibili dopo soli 10 anni, illeggibili, cioè il disco perfetto tenuto sotto chiave, perfetto, se niente polvere, niente rigature, beh, dati illeggibili, era tra il diavolo tutto. Infatti hanno un tozzo di durata e poi boh, ma è un macello. No, io non sto più né materializzando nulla, non sto facendo più nulla. Adesso rilanciamo Vittorio. Allora, come le videocassette, ti faccio un esempio terra a terra, no? Quando registravo la telecamera VHS, allora certe videocassette della marca Texpert, no? Prese da scarpa all'epoca, registrate nel 90 della cavalcata, si vedono ancora bene con tutti i limiti del tempo, ma si vedono bene. Certe videocassette magari marcate TVK, BASF, e dopo pochi anni diventavano illeggibili, conservate allo stesso modo, nello stesso posto, lontano da campi magnetici, da polvere, niente, diventavano illeggibili, un pasticcio, i materiali non sono tutti uguali. E quelle Expert che non valevano due schiaffi, costavano, mi pare, 2.900 lire una cassetta rispetto ai 7.000 lire di quelle buone, è durata più delle altre. Vai Vittorio. Hai ragione, sì, su quella fatto lì, sì, sulle videocassette all'epoca io prendevo solo TDK, erano buone, però capitava che prendevi una cassetta che non era TDK, una marca bastarda, ed ha resistito. Infatti anche io ho delle videocassette ancora, che ho il videoregistratore che non lo uso più, sono forse 20 anni che non lo uso, però c'ho delle registrazioni che avrei voluto recuperarle e metterle in CD, però il CD c'è sempre quel discorso che dici tu prima, che si cancella, praticamente tu metti il CD e detto non c'è nulla, ma perché si cancella il CD? Anche stiamo rispettando anche le penne, le penne tu la metti, c'è un sacco di roba dentro, vabbè, non c'è niente, vuoto, boh, ma come mai? Secondo me il laser, che magari non brucia abbastanza profondamente, o gli strati proprio della masterizzazione sono labili. Comunque i CD, se tu andavi a leggere cosa tutto c'era dietro, c'erano delle marche che erano di qualità eccelsa, che non proprio la marca del CD tipo TDK, roba lì, proprio il produttore originale taiwanese o cinese. Certi erano particolarmente pregiati, dovevi vedere un codicino che c'era non so dove nella confezione, o comunque quando li ordinavi dovevi chiedere quel codice, ed erano proprio di qualità eccelsa, duravano, registravano bene, non perdevano dati, però erano non ne trovavi, cioè erano i più comprati dagli esperti, dagli smanettoni dell'epoca. Era raro trovare quella marca, cioè quel produttore, quel lotto anche particolare. Poi variava anche dai lotti, certi lotti andavano bene, certi meno bene, e io ho detto troppe cose da sapere. Sì, no, ma io prendevo Sony, e Sony erano buoni, non mi risulta ancora di avere notato che un CD mi sia cancellato. I TDK si cancellano, non riesco a capire, i Sony sono i più buoni secondo me. Sì, guarda, li avevo provati in periodi più recenti e sembravano buoni i risultati, sono tuttora leggibili. Poi ti ho detto, dipende molto il produttore, cioè Sony mette il nome, ma poi chi, il produttore di Taiwan o di dov'è, è una cosa delicata. Qua ho perso tutto lì, anche vedi, sui vecchi computer avevo tutti i siti di riferimento, tutte le tecniche, tutte le cose. Poi quando si scassano i computer, tu le metti da un lato e tutte le informazioni che c'erano quello su quell'hard disk, appunto le vorrei recuperare. Guarda che ormai cioè, i film sono obsoleti, DVD. Cioè alla fine è giusto per il gusto personale di ricordarsi le cose, mi tutto lì. Sì, certo, ma guarda che aveva ragione Natalino poc'anzi che ha detto che bisognava usare i DVD registrabili, i RV, quelli non si cancellano. Ho provato, non ne ho trovato neanche uno che si è cancellato mai nulla. E i Sony, gli altri, quelli che prendi così occasionali, tendono a non lo so, probabilmente i solchi dove passa il laser non legge, non registra bene e col tempo si cancella. Io tuttora ogni tanto qualche CD lo faccio e avevo scoperto che il masterizzatore moderno preso 2 anni fa di quelli esterni, no USB. Allora, il programma nero di masterizzazione, quello vecchio di XP, bruciava i CD o i DVD perché il masterizzatore era troppo, diciamo, moderno, avanzato, come chi vuole la giusta copiata, cioè non puoi usare un programma vecchio con un masterizzatore nuovo, visto che non va, devi usare un programma, di solito te lo danno anche di serie, programmino per masterizzare, deve essere attinente comunque ai tempi, sia l'hardware che il software. Sì, perché non sono compatibili, mi. Eppure Natale io usavo le cose base, cioè non usavo funzioni speciali, usavo le cose proprio base che si usavano 20 anni fa, eppure nero, niente, mi sballava tutto. Invece cosa ho usato per masterizzare da poco? Boh. Ce n'è uno che credo sia Cyberlink, credo sia proprio, e l'altro è Ashambo mi pare, e non lo ricordo bene, devo fare mente locale, vabbè. O poi, io che sono un feticista di queste cose, natalizio, ho la collezione di floppy colorati, sia effetoneon sia normali, proprio da tenere, non da usare, non li puoi usare, a parte che non servirebbero, che non ci sta niente. E tutti i floppy dal 2000 in poi sono tutti leggibili, cosa eccezionale, tutti i dati perfetti, ma intanto li faccio le verifiche. Ma parli dei floppy 3,5? Sì, floppy 3,5, cioè i floppy, quelli hanno resistito più dei CD e più dei DVD, pensa, tuttora leggibili, intanto provo a leggerli con lettorino esterno portatile, non che servano perché tra l'altro la quantità di memoria è non ridicola, proprio demenziale di questi tempi, però la soddisfazione di avere un driver funzionante e ho anche tanti floppy vergini, sia colorati e sia anche neri normali, che li svendevano dal mercatone mi pare, con Furama, mi pare un euro a confezione era all'epoca, o 2 euro, non mi ricordo, un pacchettino di floppy, mi tengo come ricordo. No, vabbè, io ne avevo tantissimo, se non ce ne ho buttato quelli dove c'erano, li ordinavo dalla Gem, come sono i MIDI file per i karaoke, ne avrò buttato almeno, non lo so, ma 500 minimo li avrò buttati, già perché poi ormai ci sono, ho 2 CD di DVD, 2 o 3 ne ho, che sono pieni di MIDI, non MIDI, MIDI professionali, presi da un CD, da un napoletano, che sono perfetti. E magari se vai a indagare scopri che il produttore era quello famoso buono, con quel codice famoso lì. E poi vabbè Natalino magari non masterizza, vabbè chi masterizza più ormai, a dirla tutta. Dicevo, i masterizzatori CD e DVD esterni, quelli USB, ormai dentro sono fatti di carta velina. Tu vedi questo cassettino, no? Quando per mettere il CD, sembra fatto di carta velina, sono fatti proprio tutti in economia, è incredibile che funzionino pure. Sì, vabbè, ormai non si usano più, ormai c'è la, metti la penna, c'è una penna 64 giga, la voglio mettere roba dentro. E io uso l'hard disk esterno, c'ho un hard disk da 500 esterno se devo salvarmi qualcosa. Vabbè, tu una felice la disca esterno, ma se io ho un tera e nel mio computer che cosa devo fare? La disca esterno mi metto, a voglia ce ne state roba dentro, sono due hard disk da 500 e io ho un tera, a voglia mettere roba. Allora, il problema è la registrazione, se io devo fare una registrazione nel mio computer, quando suono la tastiera, la chitarra per fare una registrazione mia personale, per registrarmela libera e portarmela quando mi piace, non la posso fare perché mi manca un case, perché non posso registrare direttamente nel computer. Ecco perché stavo cercando un case prima. No, ho capito. Oh, io mi sono mangiato le mani per queste cose audio video, perché per indolenza le videocassette non le ho trasferite su CD, DVD, hard disk, no? E c'avevo tutti i mezzi per farlo. Le videocassette si sono rovinate col tempo e ho perso le gite scolastiche, ricordi di scuola generici, ricordi di gite in famiglia, tutto perso, tutto per indolenza. Lì mi sono mangiato veramente le mani, perché c'avevo quella scheda Pinnacle, quella nel proprio per la torre, no? Quindi non era roba USB, quella era veramente eccellente la scheda d'acquisizione, però vedi, però poi oggi no, domani no, ho aspettato troppo e le videocassette, nonostante siano state tenute bene, poi erano tutte effetto neve, capito? Pazienza. Sì, perdono di non di segnale, perdono di video, il video rimane tutto, le facce vengono tutte storte, non, il naso viene allungato, la bocca, tutto qua, e quindi non servono più le immagini sono tutte storte e vabbè, e quindi recuperi niente. Ma tuttora, vabbè, ho la possibilità, ma tanto non ho ripreso il video, diciamo, vabbè, qualcuna sì, ma è tutta robetta che può anche cancellare, non serve a niente. E quelle schede ridicole che trovi su Amazon di acquisizione, no? Che hanno l'ingresso audio video, forse anche il Super VHS hanno, e costano 20 euro, 15 euro, 20 euro, 25, dipende dalla marca, sono proprio quelle, il minimo cibo da mensa, diciamo, dai. Ci vuole un programma adatto, per esempio col programma di serie non fai niente, perché salta l'immagine, è tutto uno schifo, proprio inutilizzabile. Invece se usi OBS Studio, che è un programma per l'audio video lì, con OBS Studio sono riuscito a catturare correttamente l'immagine volendo salvare da videocassette, oppure io ho anche le mini DV, le 8 mm AI8, come si chiamano? Quelle analogiche delle videocamere, già avete capito? Sì, sono più fedeli quelle. Oh, e funzionano tutte, funziona sia la 8 mm sia la mini DV. Però una volta partite quelle diventerà tutto illeggibile. Però ripeto, roba da poca, le cose importanti fatte con la VHS grande è tutto perso, peccato, guarda, ci sono mangiato le mani. E quante cose si perdono, porca miseria. Vabbè, il ricordo rimane nella mente, però ogni tanto era bello evocare su schermo i ricordi. Beh, Marcoli. Cavolo, abbiamo fatto l'otto e un quarto mi, e devo, scusate che c'ho, ma devo chiudere un'ora fa, io c'ho un fastidio sotto, Natali, un fastidio che non ti dico, questa è prostata, a dirla tutta, a me sembra infiammata. Va bene, dai ragazzi, io chiudo che mi hanno chiamato, all'appello mi hanno richiamato, e quindi devo rientrare, dai, ci sentiamo, alla prossima. Buon proseguimento, siete rimasti voi due, tante cose belle, buona cena per dopo, per te, che tu sei un notturno, Marco. Buon proseguimento a Natalino, dai, tante cose, aspetto le vostre e poi chiudo, ciao ciao, buonanotte. Ciao Vittorio, dai, buonanotte anche a te, buon proseguimento di serata. ci sentiamo alle prossime. Grazie per le quattro chiacchiere, magari fate sentire di più. È stato un piacere, avanti Marco. Ciao Vittorio, buon QRT, ci sentiamo le prossime, almeno abbiamo parlato di qualcosa, di un argomento, più argomenti, se no questo povero baracchino che fine fa? Ok, dai, di nuovo, buonasera, buon tutto, alle prossime. Ciao. E Marco, chiudo anch'io, dai, che aspetto a farmi l'insulina e poi me ne vado a letto. Ci sentiamo alle prossime, dai. Buon tutto anche a te. Grazie per le quattro chiacchiere. Magari c'era tutto il mondo ascoltando ed eravamo solo noi tre. Vabbè. Magari la gente non era interessata agli argomenti che abbiamo trattato stasera, dai. Va bene, sempre così, anch'io, cioè, quando si parla che ne so di tante cose non saprei cosa dire, allora magari non me l'ascolto. Sì, adesso mi piglio, mi sa, un antinfiammatorio, però ogni tanto qualcosa dobbiamo sempre patire, che palle, guarda, un'altra rogna in arrivo lì. Ha sempre l'antifiammatorio. Ciao Antonio, buonanotte, ciao. Ciao anche a te Marco, va. Buon tutto, alle prossime.